Buonasera, benvenute, benvenuti alla prima puntata della stagione di Cabaret Voltaire, per cui sono molto felice che abbiamo scelto, cioè che ho scelto di dedicare a questo tema della giustizia riparativa, perché era da un po' di tempo che volevo farlo e penso che si inserisca molto bene nella filosofia un po' di questo podcast, in quanto parleremo di appunto un modello di giustizia che si incentra sull'incontro, sull'ascolto, sul dialogo. E se pensiamo alle passate puntate di Cabaret Voltaire, ho dedicato due puntate all'ascolto, al dialogo, quindi penso che rientri un po' in questa filosofia. E quindi ho deciso di invitare questa sera due mediatrici appunto esperte in programmi di giustizia riparativa, che sono Lucia e Giuditta, e alle quali passerei subito la parola per forse un po' presentare il tema anche attraverso la vostra storia, se volete un po' raccontare chi siete e un po' come siete arrivate a questo lavoro, insomma, e raccontare magari un po' il contesto comunque sia storico che in generale, dare delle linee guida su che cos'è la giustizia riparativa, perché non è detto che tutte le persone che ci ascoltano sappiano di cosa si tratta. Grazie Laura, buonasera a tutte e tutti. Io sono Giuditta Furlan e appunto sono mediatrice, esperta in programmi di giustizia riparativa, e come formazione sono in realtà sociologa. E questo perché, adesso poi lascio la parola anche a Lucia, però ognuno di noi, cioè, per diventare mediatori non serve una formazione specifica e quindi ognuno di noi ha anche un altro tipo di formazione. La mia in particolare è quella sociologica e lavoro come mediatrice dal 2017-2018, quindi sono 7 anni. E lavoro per il Centro di Giustizia Riparativa del Comune di Milano e di Monza. Buonasera a tutte e tutti, io sono Lucia Pagani, sono anch'io appunto una mediatrice esperta in programmi di giustizia riparativa e, come accennava Giuditta, io ho una formazione, come dire, a latere rispetto a quella della giustizia riparativa, quindi sono una psicologa e quasi una psicoterapeuta. Oggi per diventare mediatori penali c'è un percorso strutturato che può essere attraverso master e tutto, perché dal 2022 c'è una riforma Cartabia, una legge italiana che ordina e disciplina questa materia, ma quando io e Giuditta ci siamo formate non c'era ancora. Ci siamo formate in posti diversi, perché io mi sono formata a Bologna e tu a Padova. E entrambe abbiamo seguito un corso che prevedeva sia una parte teorica che una parte esperienziale. Ma proviamo a entrare un po' nel vivo. E per giustizia riparativa intendiamo tutti quei procedimenti che permettono alla persona indicata come autore dell'offesa e alla vittima del reato di incontrarsi. Questo incontro può avvenire se ci sono delle caratteristiche, e innanzitutto una di queste è quella della volontarietà, cioè lo si può fare solo se lo si desidera, perché è un'occasione, un'opportunità, e come tale deve essere volontaria. E un'altra caratteristica che è molto importante e che un po' distingue questi nostri lavori è quella della confidenzialità. Tutto quello che viene detto all'interno di questi programmi rimane custodito tra i mediatori e i partecipanti. E infine c'è quella del non giudizio. Quello che noi diciamo sempre in apertura dei programmi che facciamo è che noi non siamo giudici, non siamo arbitri, non siamo consiglieri, e quindi non spetta a noi giudicare chi ha fatto bene, chi ha fatto male, dare un consiglio o esprimere un parere. Noi abbiamo un compito, per fortuna, molto più facile, che è quello di facilitare l'ascolto e il dialogo, e questo un po' descrive il nostro ruolo. Per dare un po' un contesto più generale, la giustizia riparativa nasce negli anni 50 negli Stati Uniti, e nasce perché iniziano a fare degli studi sul tema delle vittime e quindi della vittimologia, scusate, io faccio fatica con le parole a volte, vittimologia, Proprio perché ci si rende conto che all'interno del dei percorsi di giustizia o dell'idea di giustizia c'è un grande assente che è la vittima. Cioè la giustizia, che è quella tradizionale, si è sempre concentrata molto in particolare sulla persona che ha commesso il reato, quindi su una definizione di quelle che sono le pene, su una definizione di quello che è il carcere, quindi la punizione. E a un certo punto c'è tutta una, diciamo, una modifica per cui si inizia a dire: no, è importante che non ci sia la punizione, ma la persona venga rieducata. Ma il focus è sempre molto verso la persona che ha commesso il reato. E non esiste istituzionalmente uno spazio dedicato alle persone che subiscono il reato. E quindi la vittimologia inizia a studiare tutti i fenomeni che riguardano le persone che subiscono i reati, e da lì, da quel filone lì, nasce l'idea che la giustizia possa considerare e dare spazio anche alle persone che subiscono un reato. Quindi nasce appunto negli anni 50 negli Stati Uniti come restorative justice, ed è un modello che mette al centro appunto la possibilità innanzitutto che la vittima possa raccontare il suo punto di vista e l'esperienza che ha vissuto, e il suo dolore possa avere uno spazio, e che ci possa essere una forma di riparazione, da cui viene il nome. Perché tendenzialmente la riparazione classica dovrebbe essere quella della punizione, cioè tu mi hai fatto del male e io dovrei essere a posto con l'idea che tu sia in carcere e stia patendo una pena e un dolore pari o maggiore rispetto a quello che hai fatto a me. Questo non sempre funziona, e quello che si è visto e il motivo per cui nasce la giustizia riparativa è che tantissime vittime hanno un sacco di domande in sospeso, principalmente quella: perché? Perché l'hai fatto? Perché l'hai fatto a me? Cosa hai provato quando hai fatto questa cosa? Che non hanno spazio nel sistema di giustizia. Quindi nasce per dare spazio al punto di vista delle vittime. Sì, noi Giuditta ed io lavoriamo in tanti contesti, cioè lavoriamo in contesto penitenziario, lavoriamo in contesto penale, minori e adulti, in contesto sociale e scolastico. Ma è molto immediata, come dire, il perché sia importante dal mio punto di vista, perché a tutti noi può essere successo di subire un furto, come il telefono, la borsa, il portafoglio, senza pensare a cose più gravi, no? E quando si sporge la denuncia, quello che si scrive nella denuncia è il contenuto del portafoglio, il contenuto della borsa, l'insicurezza che quello stesso fatto ha generato, la percezione di vulnerabilità, per non parlare poi del contenuto affettivo ed emotivo che ci può essere in una borsa, in un portafoglio, le fotografie. Quelle robe lì non trovano spazio in una denuncia, giustamente, però sono cose che esistono e che ognuno di noi può aver sperimentato. E allora l'idea è quella di poter creare uno spazio, quello dell'incontro, che appunto è molto importante che sia volontario, perché se io incontro colui che mi ha rubato la borsa perché è un giudice che glielo dice, è un conto. Se io lo incontro perché anche lui vuole incontrarmi e per legge lui non può avere dei benefici a livello di procedimento penale, quindi mi incontra solo perché lo vuole fare, io lì posso porre delle domande, posso appunto, come diceva Giuditta, capire perché io, no? E questo mi sembra un'esperienza immediata rispetto a dei reati che, seppur gravi, sono minimi, di impatto minimo, no? Fino ad arrivare a dei reati molto più gravi, perché l'esperienza non solo nostra ma oltre trentennale dei nostri colleghi dimostra che la giustizia riparativa funziona tanto e bene soprattutto con i reati gravi gravissimi, e quindi penso a dei fatti molto gravi come possono essere degli omicidi, cioè a fatti molto importanti, e lì si lavora con i familiari della vittima nel caso di un omicidio, ma come dire, ci sono varie direttive che li includono nella definizione di vittima, proprio per poter dare uno spazio di ascolto. Cui parte in realtà dalla domanda della vittima, non viceversa? Allora, questa cosa dipende moltissimo. In realtà, siccome il nostro sistema giudiziario e penale è molto incentrato, appunto è reocentrico, quindi è incentrato sulla persona che commette il reato, attualmente ai nostri centri arrivano principalmente dal tribunale, e quindi non direi che arrivano, cioè non ci sono tante domande dalle vittime. abbiamo dei presidi, quindi degli sportelli di ascolto vittime da cui arrivano anche queste richieste, però non ti direi che nell'effettivo, nella realtà di oggi, parte da quello. E ad esempio, se devo raccontare anche la mia esperienza personale su come mi sono avvicinata, in realtà io mi sono avvicinata anche per un'idea di giustizia diversa. In realtà il mio sguardo era molto reocentrico all'inizio, cioè scoprendo la giustizia riparativa ho scoperto tutta la parte delle vittime, ma all'inizio io ho scoperto questa passione per il carcere. Adesso sembra strano dirlo così, però non avevo mai pensato a una realtà come poteva essere il carcere e a come è strutturata la nostra giustizia, che è una giustizia appunto basata principalmente sulla punizione e quindi su dei sentimenti di vendetta. E quando ho scoperto che poteva esserci un modo diverso di giustizia in cui le persone potevano avere uno spazio degno, anche se avevano commesso dei gesti tremendi, in cui poter essere ascoltate, poter essere viste e poter raccontare la loro storia, per me è stata wow, cioè è stata una cosa rivoluzionaria per me. Quindi per me è partito, e molte volte parte da questo punto di vista, cioè dal bisogno di dare delle alternative alla giustizia tradizionale. Poi adesso specifico il termine alternativo perché non va bene, però dare degli altre possibilità, ecco, alla giustizia tradizionale, che non sia quella punitiva in cui prendo, ti isolo dalla società, e quindi la separazione, cioè tu hai commesso qualcosa di molto grave verso qualcuno o la comunità e quindi ti prendo e ti isolo, che è una cosa non funzionale, perché ce lo dicono i dati, chi esce dal carcere circa il 70-76% fa recidiva, quindi il reato che ha fatto lo rifà. Quindi non funziona. Allora esistono altri modelli attraverso cui, invece che l'isolamento e la separazione, quello che è successo può essere gestito in altro modo e la persona che ha commesso il reato non viene trattato come una persona che non è più degna di far parte della società, che deve essere punita. Cioè io ti dico, tu hai fatto del male e per fartelo capire ti provoco altro male, cioè un cortocircuito. Io da qui sono partita e mi sono avvicinata alla giustizia riparativa, e quindi ha anche questo enorme valore. Però ecco, il nostro sistema penale è ancora molto concentrato sul punto di vista dell'autore del reato. La giustizia riparativa in origine nasce in realtà per dare spazio alle vittime, è fondamentale dal mio punto di vista anche per l'autore del reato, perché appunto gli dà la possibilità di raccontarsi. Sì, mi viene da dire che basti pensare che nel procedimento penale adulti la vittima non c'è, a meno che non si costituisca come parte civile, a quel punto può entrare all'interno del procedimento, ma formalmente è quello che noi definiamo un accertamento di una responsabilità verticale. Hai violato un articolo e a quel punto, con un articolo del codice penale, a quel punto ti viene comminata un tot di pena, che è tendenzialmente appunto un sistema retributivo, tanto e tanto. L'idea delle pratiche di giustizia riparativa è che è il motivo per cui io mi sono avvicinata a queste pratiche, è un'idea di responsabilità orizzontale, per cui la possibilità che attraverso l'incontro con la persona che ha subito o agito il male in questione si possa incontrare i limiti del mio agire, no? E anche immaginare quelli che sono gli effetti del nostro agire. Oggi pomeriggio ho fatto una mediazione per un caso di rapina di giovani fanciulli che all'epoca dei fatti avevano 13 anni la vittima, 14-15 anni le persone indicate come autori dell'offesa. Il reato è un reato piccolo, no? Cioè nel senso, è stata una rapinetta, chiamiamola così. Il ragazzo vittima diceva che quello è stato il giorno più brutto della sua vita, e solo attraverso il dialogo è emerso che anche per le persone indicate come autori dell'offesa è stato il giorno più brutto della loro vita, perché a partire da quel momento lì si sono innescate delle riflessioni sul male arrecato. Poi durante la mediazione non hanno detto che queste riflessioni si sono innescate in questura, lo sappiamo noi. Ma comunque è stato un primo passaggio per iniziare a riflettere sulle conseguenze del proprio agire, non solo in termini di messa alla prova, quindi di limitazione della propria responsabilità, della propria libertà di azione, ma proprio nei termini di l'impatto che i miei gesti possono avere sulle altre persone. Immaginarsi di fare terrore a qualcun altro è un'esperienza devastante che sconvolge le vite. E allora oggi i ragazzi, in conclusione, poi con delle espressioni molto spicce, dicevano alla vittima: no, perché noi ti volevamo venire a cercare, che detta così suona male, ma malissimo, ma perché volevano scusarsi, perché volevano dirgli che loro hanno capito che hanno fatto una stupidata, e però non ci sono fuori dalla giustizia riparativa degli spazi, e allora diventa per me è essenziale che esistano formalmente definiti e, come dire, istituiti dalla giustizia degli spazi dove ci si possa incontrare, e che questi spazi, torno a dire, siano volontari, pulisce il campo. Perché se anche, come dire, può esserci una motivazione strumentale per cui vabbè, vengo perché così il giudice poi chiude un occhio, no? All'interno dell'incontro ci si mette in gioco per quella che è la ciccia vera, per cui la strumentalità dopo un po' esce dalla porta e l'incontro è autentico, e ci si mette, come dire, in gioco anche riuscendo a uscire dal proprio ruolo, perché sia per la persona che ha commesso il reato sia per la vittima è un ruolo che incatena, non si può rimanere vittime a vita, perché dopo un po' bisogna poter andare avanti nel tempo, come dire, soggettivamente stabilito, no? E allora la possibilità che attraverso un incontro si possa incontrare sì la persona che mi ha fatto quel male, ma anche una persona, permette, con un tempo che, ripeto, essere soggettivo, non può essere prescritto, però di lasciarselo un po' anche alle spalle. Un'immagine per me molto potente che usiamo spesso nelle nostre pratiche è quella di una ferita. Se la ferita continua a sanguinare, io non so, non potrò più utilizzare quell'arto, quella mano, quel pezzo del mio corpo. Quando diventa cicatrice, il ricordo non passa. Io vedo qui traslucida una mia cicatrice, il ricordo rimarrà per sempre. Però posso continuare a vivere la mia vita, no? E quindi si può andare avanti. No, volevo fare una specifica sulla cosa che dicevo prima rispetto al fatto che non fosse alternativo, nel senso che la giustizia riparativa è un modello di giustizia che appunto da un paio d'anni, attraverso la riforma Cartabia, è diventata legge, ma è una forma di giustizia che non è assolutamente alternativa alla giustizia tradizionale. Quindi c'è la legge del tribunale, che è la giustizia tradizionale, che è una giustizia che viene rappresentata con una benda, quindi è cieca, dice in tribunale la giustizia è uguale per tutti, con un maschile sovraesteso, ma a parte questo è proprio per l'idea che la giustizia non debba guardare chi ha davanti, ma prende il reato, lo mette su una bilancia, quindi l'altro strumento che ha la giustizia è una bilancia, misura il reato e dà un corrispettivo di pena a seconda del reato, e poi è una spada perché ha l'obiettivo di dividere, no? La giustizia riparativa invece guarda in faccia le persone e dà quello spazio lì. È fondamentale che ci sia l'altro tipo di giustizia, perché è fondamentale che ci siano delle regole condivise da tutti, che attraverso cui noi ci affidiamo alla società. Cioè, noi quando usciamo di casa sappiamo che alcune cose brutte non ci dovrebbero capitare perché non è giusto, e questa è una cosa importantissima per ognuno di noi. Il problema è quando questa regola viene infranta, il patto che io ho con la società, che è esco di casa e nessuno mi ruba quello che ho addosso, viene infranto, e questo va a compromettere, non so, la mia paura nell'uscire di casa. Questo è il patto che viene a rompersi, ed è il motivo per cui, dal nostro punto di vista, se le persone vogliono, hanno la possibilità di incontrare quella persona che magari, cioè, incontrando vittime, noi ci rendiamo conto che queste persone diventano questi fantasmi, questi mostri che incarnano tutta una serie di paure, e poterli incontrare, dargli un volto e poterli invece iscrivere in una storia, in un motivo per cui è successa quella cosa lì, è fondamentale per ricucire anche il patto che tu hai con la società. E questo è fondamentale anche per dire che deve essere complementare alla giustizia tradizionale, non può sostituirla, proprio anche per tutelare il fatto che sia volontaria, cioè che le persone possano scegliere di fare quel tipo di incontro, perché invece è molto legittimo che le persone possano scegliere di non mettersi in una situazione del genere. infatti in questo senso volevo chiedervi, che poi abbiamo parlato un po' del fatto che forse potreste raccontare un po' delle esperienze che avete avuto anche per dare un'idea di come funziona nel pratico, no? Un incontro di questo tipo, e anche magari specificando, se si può dire così, diciamo l'impatto che questa cosa può effettivamente avere poi sia sulla persona che ha compiuto il reato sia sulla vittima, se così si dice, e quindi anche vedere se questo in un senso anche più ampio ha un impatto sulla società e sul funzionamento anche del, non so, immagino reinserimento di queste persone nella società in tutti i due sensi, cioè di come poi vivono sia la rottura del patto magari la vittima, sia invece come poi l'autore di reato rivive il suo reinserirsi nella società. Che domanda complessa. Inizio magari a scomporla. Sì, no, magari dando anche degli esempi. Esatto, no, perché non so se, cioè almeno per me, l'incontro con la giustizia riparativa è partito da Giuditta, che conosco da tanto tempo, e quindi attraverso i suoi racconti e attraverso un podcast che consiglio, che è Io ero il milanese, che racconta appunto la storia di Lorenzo e di come lui si sia, cioè sia arrivato addirittura a diventare un mediatore, quindi racconta un po' tutto il suo processo di come ha vissuto la fase di reclusione, se così si dice, no? E del suo incontro con, cioè del suo incontro scontro con probabilmente anche il suo vissuto rispetto al reato che ha compiuto, e come poi effettivamente abbia riscoperto anche grazie alla rivista, che non mi ricordo come si chiama, Ristretti Orizzonti, esatto, bellissima, grazie di avermi consigliato questa cosa, che consiglio di andare a vedere sul sito del carcere di Padova perché è fruibile a tutti, e quindi appunto di come questa esperienza effettivamente l'abbia poi portato addirittura a diventare un mediatore, quindi è molto bello e molto interessante, e però appunto per me è l'unico incontro che ho avuto su questo tema, quindi non so neanche se le persone possono avere realmente in mente cosa significa nel pratico. Sì, sì, beh, intanto dico che la mia era una battuta perché la complessità mi affascina, quindi grazie. E inizio magari provando a tratteggiare un po' quello che è l'iter classico. Un magistrato segnala un caso, una situazione che può essere a sua valutazione, a sua discrezione, un caso da inviare a un centro per la giustizia riparativa. Noi riceviamo questa segnalazione e, come dire, per farla facile a fini, come dire, descrittivi e fruibili, mettiamo che ha un autore di reato e una vittima. Questo è un caso facile, giusto per dire, mi è capitato un caso dove erano 22. Ed erano minorenni, quindi dovevo chiamare due genitori, cioè era stato veramente impegnativo. Ma stiamo sul caso facile, uno a uno. Noi prendiamo contatto inizialmente tramite lettera, perché in questo modo, come dire, c'è un'informazione scritta che ti permette un po' di accedere a questo mondo della giustizia, che è della giustizia ma anche un po' scardina le regole cui siamo abituati, no? Dei burocrati o dei funzionari in divisa. E alla lettera segue una telefonata da parte del mediatore referente del caso, che invita a svolgere un colloquio preliminare, che è uno spazio individuale, riservato, volontario, dove alla presenza di due mediatori e mediatrici la persona, che può essere la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima, ma in spazi appunto separati, possono intanto iniziare a raccontare la propria vicenda. Raccontare non a fini di indagine, ma proprio che cosa è successo. E quella che è una delle prime domande che viene rivolta a queste persone è di partire da quello che loro ritengono essere l'inizio significativo, no? E quindi non è detto che sia il reato, ma quello che tu ritieni essere il primo momento di quella vicenda che ti ha portato lì. Al termine di questo primo incontro, che può essere uno o possono essere di più a seconda delle necessità, perché uno dei vantaggi del nostro metodo è quello di essere costruito su misura, non esistono taglie uniche ma è tutto tagliato su misura, è quello che se entrambi acconsentono, si può arrivare a quello che è un incontro. Un incontro che avviene alla presenza di tre persone, di tre mediatori e mediatrici. Cerchiamo di avere un'equipe a composizione eterogenea, perché avere orecchie diverse permette di ascoltare anche cose diverse e coglierne la profondità e la complessità, e avviene quindi l'incontro, che è uno spazio riservato per il quale, come dire, quando hai una mediazione non puoi prendere impegni dopo, perché può durare 3 ore, 4 ore. Io oggi ho iniziato alle 3, ho finito alle 5:30. Sapevo di dover essere qui alle 8:30, ma dalle 3 alle 8:30 avevo abbastanza tempo, no? E durante questo momento, che è l'incontro di mediazione, viene innanzitutto chiesto a ciascuna delle persone coinvolte di raccontare la storia dal proprio punto di vista. E può apparire strano, ma molto spesso questa è la prima volta che si ascoltano. Cioè che la vittima e la persona indicata come autore dell'offesa ascoltano la storia dall'altro punto di vista. E al termine di questo momento un mediatore fa una sintesi per, come dire, vedere di aver capito tutti per bene, e il dialogo può fluire liberamente. Al termine dell'incontro, che, come dire, può essere un dialogo fitto, può essere un dialogo con tempi più lenti, a seconda un po' delle caratteristiche delle persone, a un certo punto si capisce che il clima è cambiato, la gestualità delle persone è diversa, si rivolgono direttamente l'una all'altra, e i mediatori, le mediatrici, iniziano a introdurre il tema della riparazione, che non è una cosa che sappiamo noi mediatori, perché non posso sapere io che cosa può riparare qualcun altro, ma noi accompagniamo nell'individuare un'azione simbolica o materiale che possa riparare, che non sia afflittiva, perché a quello ci pensano altri organi, per fortuna. Afflittiva. Non avevo capito la parola, scusate. Cioè che non sia umiliante, che non sia una roba brutta, ok? Ma che sia qualcosa che possa riparare. Nella mediazione di oggi, i ragazzi spontaneamente a un certo punto si sono chiesti scusa, si sono dati la mano, e uno dei ragazzi del gruppo delle persone indicate come autore dell'offesa a un certo punto è stato un reato di gruppo versus un singolo, e abbiamo ragionato tanto sul tema della forza tra adolescenti maschi, e a un certo punto uno dei ragazzi ha detto: beh, ma secondo me la forza non è la nostra, che agivamo come gruppo, è la sua, lui è più forte di noi, no? Rispetto a riconoscere che la vittima, che da sola, che è stato il giorno più brutto della sua vita, che era terrorizzato, è andato a incontrare questi qui, certo alla presenza di tre mediatori e non in un vicolo buio a tarda notte, però è comunque andato a incontrarli, e allora gli ha riconosciuto questo merito, no? La vittima non l'aveva capito, infatti gli abbiamo detto: ma hai capito che cosa... Ah sì sì sì sì sì. Poi insomma sono adolescenti, sono maschi. È stato molto potente, e quindi, come dire, questo atto simbolico gli ha riparato un pezzo, no? E questo, sono partita da lontano ma poi arrivo dove mi hai chiesto, è un po' l'impatto, cioè la possibilità che si ripari qualcosa, si ripari quella fiducia che era stata rotta, si ripari un po' un senso di sé, un senso di sicurezza, anche, come dire, un senso di sicurezza individuale e sociale, no? E insomma, ecco, mi veniva da dire queste cose qua. No, io volevo raccontare invece un'esperienza che io non ho seguito, però mi sembra utile ricordare, perché è una delle più famose e importanti che sono state fatte in Italia, che è l'esperienza che è durata 7-8 anni, no? Che è confluita poi nel libro dell'incontro, che è un libro che racconta tutta questa esperienza di un percorso di giustizia riparativa tra parenti di vittime delle Brigate Rosse ed ex brigatisti. E comunità. E comunità, esatto. Perché, esatto, la giustizia riparativa tiene conto anche della comunità come parte lesa dai reati. Tra l'altro ci sono reati che non hanno delle vittime intese come persone dirette, come può essere, non so, fare una scritta sul muro, il reato di spaccio, o anche, prima raccontavi di Lorenzo, rapinava banche, E lui, finché non ha incontrato la giustizia riparativa, diceva: vabbè, ma io non ho delle vittime, cioè entravo nelle banche, prendevo i soldi, li prendevo al potere, cioè vaffanculo, che ci sta. Ma poi ha capito, no, non ci sta, per carità, cioè nel senso era vabbè, un commento sul potere delle banche, non contro, cioè ovviamente quei reati hanno delle vittime, perché lui entrava con una pistola e faceva paura a tantissime persone, e un atto del genere ha delle conseguenze sulle vite delle persone veramente a livello quotidiano. Mi ricordo la prima vittima che ho ascoltato, che era una ragazza che aveva subito un furto in casa mentre era in casa, non so, da quel giorno lei non ha più fatto la doccia da sola, teneva sempre tirate giù tutte le tapparelle, non poteva più stare a casa da sola. Cioè i reati hanno degli impatti sulle vite delle persone reali, tangibili, pazzeschi. Comunque vabbè, Lorenzo attraverso la giustizia riparativa ha capito che anche il suo reato aveva appunto delle conseguenze sulle persone che erano presenti, ma poi le persone tornano a casa, lo raccontano e si espande, cioè il senso di paura si espande. Poi lo sappiamo anche dai nostri mezzi di informazione, che sono favolosi in queste cose, però non so, facciamo sempre l'esempio di un palazzo, avviene un furto in un appartamento, tutti i vicini lo sanno, tutti inizieranno ad avere un senso di insicurezza e di paura, probabilmente, poi non voglio essere, però probabilmente sì. Quindi c'è sempre anche una conseguenza sulla comunità, quindi all'interno della giustizia riparativa si tiene conto anche dell'impatto sulla comunità, e spesso i gesti riparativi hanno proprio l'intento di portare anche fuori dalla mediazione un gesto che sia simbolo della riparazione, perché è importante portarlo anche fuori da quella stanza. Quindi all'interno di questo percorso, che appunto è durato diverso tempo, 7-8 anni, che ha confluito poi nel libro dell'incontro, si sono incontrati ex brigatisti e brigatiste, vittime e parenti di vittime delle Brigate Rosse, e una parte di comunità, quindi di persone, anche perché ad esempio il fenomeno del terrorismo e degli anni di piombo ha impattato su tutta la società, no? È un fenomeno storico, e quindi era importante in quel caso che ci fosse anche questa parte qui. Questo percorso è durato tanti anni, cito le persone più, poi non so se puoi leggere anche un pezzo, però c'è qua, ci siamo portati una sì, testimonianza, sì, certo, di Agnese Moro, perché Agnese Moro ha partecipato, che è la figlia di Aldo Moro, e ha fatto parte di questo percorso e hanno fatto questo percorso molto lungo, con cui poi hanno scritto un libro, e il libro è l'atto riparativo di quel percorso di giustizia riparativa, perché è qualcosa che tutti possono leggere, a cui tutti possono accedere, ed ha un significato ed un impatto sulla società. Leggo questo pezzo. Secondo me può essere importante perché esemplifica un po' quello che è successo. Poi ti lascio la parola. Io ricordo un incontro che avevano fatto Agnese Moro presso il carcere di Opera, dove lei ha detto che aveva scelto di incontrare colui che aveva ucciso suo papà nel momento in cui si era resa conto che il dolore nella stanza non era solo il suo, ma c'era anche quello della persona che aveva ucciso suo papà. Non tutti, non sempre, non è dovuto, hanno questa capacità, come ha dimostrato Agnese Moro, nel vedere l'altro. Però questo percorso che, come dire, hanno condotto il nostro professore Adolfo Ceretti, Claudia Mazzuccato, che è una professoressa dell'Università Cattolica, e padre Guido Bertagna, ci dà un po' la potenza di quello che si può fare all'interno di queste pratiche di giustizia riparativa. E sì, secondo me può essere... Sì, volevo solo concludere dicendo una cosa rispetto a più al tema dell'impatto, quindi anche sulla società più in generale. Cioè noi siamo mediatrici dei conflitti e operatrici di giustizia riparativa. Questo perché siamo mediatrici dei conflitti in ambito penale, quindi in giustizia riparativa, ma poi appunto oggi eravamo a Lodi per fare mediazione dei conflitti nei contesti di case comunali, di edilizia pubblica di Lodi, lo facciamo nelle scuole, quindi 2 giorni fa eravamo nelle scuole. Cioè in generale è un modello in cui si dice: ok, quando c'è un conflitto si rompe un patto, che è il patto di cui parlavo prima, ci può essere anche una possibilità che non è quella della punizione, della separazione, che a volte può essere essenziale, perché appunto, diceva bene prima Lucia, Agnese Moro ha scelto di vedere l'altro in un conflitto o in un reato. Uno può scegliere di non vedere l'altro, cioè di dire a me di cosa tu hai provato nel fare questa cosa, non me ne frega niente, è assolutamente legittimo. Ma ci può essere questo tipo di modalità di gestire quando avviene una rottura, quando avviene qualcosa che ci fa male, e questo è qualcosa di, non so, per me è preziosissimo e molto molto bello, perché è trasformativo, perché appunto quello che poi emerge dai racconti delle persone che attraversano questi percorsi è che è alleggerente. Una delle parole che più ci restituiscono è che è alleggerente, perché magari riconoscere che per Agnese Moro non era solo il suo dolore ma c'era anche quello di qualcun altro, in realtà è stata anche una liberazione, perché come diceva sempre prima bene Lucia, anche il ruolo della vittima è schiacciante, può essere schiacciante. E no, mi veniva in mente, rispetto al lavoro che facciamo nelle scuole, è potentissimo, perché tutti noi abbiamo fatto, come dire, le scuole obbligatorie, poi siamo andati avanti eventualmente e tutto, e quando succede un conflitto, che tutti noi abbiamo avuto un conflitto a scuola con il professore, col compagno di classe, con quel che l'è, la scuola ha, come la società fuori, dei metodi repressivi. E io e Giuditta adesso stiamo andando in Liguria a formare all'interno di una scuola media, e i ragazzini piano piano, e le ragazzine iniziano a rendersi conto che noi stiamo offrendo loro una cosa un po' bizzarra, cioè noi non diamo voti, non giudichiamo, quello che ci diciamo rimane lì e siamo interessate a come stanno loro. È complicatissimo, perché nella nostra vita quotidiana non siamo abituati a dire come sto, bene, male, si va avanti. Cioè forse il male un po' si approfondisce, ma neanche troppo, perché è un accollo e quindi andiamo avanti. E quindi di solito ci dicono delle cose come sono stanco, interessante, questo è il corpo, e tu come stai? E allora mi piace lo sport, e grandissimo. E piano piano, attraverso gli incontri successivi, avvengono queste cose meravigliose, per cui ti guardano con questi occhi sgranati come davanti alla meraviglia e iniziano a dirti: questo è uno strumento potentissimo. Sì. E noi che, come dire, facciamo questo lavoro da un po' di tempo, ma relativamente da poco rispetto a tanti altri colleghi, la riconosciamo quella meraviglia, perché è quella che appartiene anche a noi, perché è uno spazio. O quando abbiamo fatto una cazzata, perché una cazzata l'abbiamo fatta tutti nella vita, per andare a chiedere scusa in uno spazio normato, in uno spazio con persone esperte che ci aiutino a dialogare, o dall'altra parte quando abbiamo subito qualcosa di grave, essere accompagnati a incontrare quella persona, è un desiderio che è legittimo nutrire, no? E volevo dire una cosa rispetto a quello che dicevamo poco fa su Agnese Moro. Un altro dei vantaggi, secondo me, di questo paradigma di giustizia è il fatto che non abbia un tempo prestabilito. Noi contattiamo le persone, le invitiamo a partecipare ai nostri programmi di giustizia riparativa, ma c'è un tempo soggettivo che deve per forza essere distante da quello del tribunale. Quindi, come dire, mi è capitato di chiudere dei fascicoli con un esito di non fattibilità perché le persone non accettano, ma quello che io dico sempre, che noi diciamo sempre, è di tenere il mio numero, perché magari tra un anno le cose cambiano e allora la disponibilità del nostro centro e del nostro lavoro è di accogliere le persone quando è il loro tempo, non quando è un tribunale, un qualsiasi burocrate a stabilire quello che è il tempo giusto. I ragazzi molto spesso, i ragazzi e le ragazze ci dicono che arriviamo tardi, perché i tempi del tribunale per i minorenni non coincidono con le veloci evoluzioni cognitive, fisiche, di vita che loro incontrano. Ne facciamo quel che si può. Però ricordo il caso di una ragazzina che aveva avuto uno screzio che poi era diventato un reato con dei suoi compagni di classe che erano i suoi più cari amici, e quando un nostro collega l'aveva contattata lei gli aveva detto: ma voi siete angeli che mi aiutate a riparlare con gli amici. Per cui c'è questo bisogno, no? Ed è un bisogno che esiste in una legge, ma di cui, come dire, tendenzialmente lo conoscono i mediatori e le mediatrici, gli amici dei mediatori e delle mediatrici, le famiglie. Eccomi qui. Esatto. le persone che hanno preso parte e i loro familiari, ma si conosce poco questa cosa qui, e quindi credo che queste occasioni di parlarne... Infatti mi chiedo, cioè, a livello pratico, appunto, loro, quindi il tribunale è obbligato a dirti che tu hai questa opzione? Cioè, quindi... Sì, è obbligato a informarti. Okay. E in realtà le figure che hanno il dovere di informarti di queste pratiche, di queste procedure, sono gli avvocati, gli assistenti sociali, i giudici, tutte le figure implicate all'interno della macchina della giustizia hanno il dovere di informare. Noi, solo noi mediatori, abbiamo, come dire, la possibilità di raccogliere il consenso, che è scivoloso nella vita di tutti i giorni, è un casino in cui preferirei non entrare, grazie. Giuro che non te lo chiederò. Però specificatamente in queste pratiche è il nostro lavoro costruire un consenso che è puntuale, come il consenso deve essere, no? Quindi in qualsiasi momento è revocabile. Io ti ho detto che voglio partecipare alla mediazione, quel giorno lì, il giorno prima, il momento stesso, cambio idea, va bene così, perché è, appunto, è un'opportunità nella misura in cui sono predisposta a coglierla, non può essere imposta. Specifico solo una cosa, è dovere informare che esiste questa possibilità e le persone possono rivolgersi al centro anche autonomamente. A volte è il giudice che consiglia e segnala quindi il caso ai centri di giustizia riparativa e poi siamo noi mediatori che valutiamo se il caso, cioè prendiamo contatto con le vittime e valutiamo sia attraverso appunto il consenso delle persone, ma possiamo fare anche noi una valutazione di fattibilità se il caso può andare avanti in un percorso di giustizia riparativa. Il magistrato può valutarlo e stiamo facendo un lavoro anche perché i magistrati siano in grado di capire che cos'è la giustizia riparativa e quando può essere un caso indicato per giustizia riparativa, dovrebbe fare lui una valutazione, non so, nel caso in cui, adesso faccio un esempio molto semplice, però metti, sono due persone che abitano nello stesso quartiere e quindi probabilmente si incontreranno spesso, allora magari valuta che potrebbe essere utile un percorso di giustizia riparativa perché volendo o non volendo si incontrano. Oppure ha notato che potrebbe essere utile per determinate caratteristiche o cose che sono state espresse durante il processo. Quindi in quel caso lì ci arriva la segnalazione proprio con la scheda, i dati di tutti e noi partiamo e abbiamo il dovere di dare l'informazione a entrambe le parti. Poi le parti scelgono se partecipare. Esatto, molto ben detto. E da parte del magistrato c'è anche una valutazione rispetto alla sicurezza nel fare queste pratiche, che ovviamente è, come dire, un criterio che si tiene molto bene a mente, perché la vittimizzazione secondaria è un pericolo da tenere a mente e la volontarietà tutela da questo punto di vista, no? E mi veniva, hai fatto un bell'assist rispetto a molto spesso, soprattutto nel penale minorile, quando due ragazzi si conoscono, uno degli esiti molto efficace ed efficiente di un incontro di giustizia riparativa sono le regole di convivenza. Perché è un bel casino se io e te, Laura, ci siamo incontrate perché ti ho rapinato. Dai, non mi hai rapinato tu, ma ti ho rapinato io. E però magari io e te viviamo nello stesso quartiere, nello stesso paese, nello stesso posto e ci incontriamo e quando ci incontriamo cosa facciamo? Ci salutiamo, cambio strada, è un bel casino e quel casino lì crea insicurezza, crea incertezza, crea paure. E allora spesso uno degli esiti di un incontro di giustizia riparativa è anche stabilire delle regole di convivenza, perché se io so che quando ci incontriamo io e te non ci salutiamo perché ce lo siamo dette, lo sappiamo tutte e due, è più facile perché so che cosa aspettarmi e quando so che cosa aspettarmi l'insicurezza può calare, no? E può andar bene così perché abbiamo, come dire, congiuntamente stabilito una regola appunto di convivenza e questo facilita la vita. Faccio una breve specifica perché forse non tutti sanno cos'è la vittimizzazione secondaria. Cioè vuol dire, diciamo, tu hai vissuto un'esperienza di vittimizzazione, quindi non so, sei stata rapinata, e la vittimizzazione secondaria significa ad esempio denunci e nessuno ti crede, oppure ti dice beh però è stata colpa tua, cioè ti pare che tieni lo zaino aperto, cioè non è giusto che tenessi lo zaino aperto. Adesso ho fatto l'esempio sullo zaino, ci sono esempi molto più classici che possono essere fatti su determinati tipi di reati, però quella è la vittimizzazione secondaria, cioè non solo ha subito un reato, ma in più ad esempio quando vado a denunciarlo, ma può essere anche in una situazione sociale, può essere davanti al mio avvocato, il reato non viene riconosciuto, mi viene data la colpa, e quindi la mia esperienza di vittimizzazione è come se avesse un effetto esponenziale, cioè aumenta, ecco, questa è la vittimizzazione secondaria. E noi una delle cose che dobbiamo sempre tutelare è che questo non avvenga, quindi per quello dicevo valutiamo la fattibilità, perché ovviamente se ci arriva una persona indicata come autore del reato, non riconosce quello che ha fatto, dice no ma quella persona lì è una cogliona di merda, non so, che cazzo ne so, una cosa così, e di certo noi non permettiamo l'incontro perché questo reiteri una violenza o una discriminazione, insomma quello che è, verso la persona che già ha offeso una volta, perché sarebbe vittimizzazione secondaria. Quindi c'è assolutamente una tutela, cioè noi facciamo di tutto perché la mediazione sia uno spazio sicuro, e le regole che abbiamo, che sono la volontarietà, la confidenzialità e il non giudizio nel momento in cui le persone parlano, sono tutte a garantire il fatto che sia uno spazio sicuro. Secondo me questa lettera qua di Agnese Moro può essere interessante da leggere. Sì, dai. Te la... Io potrei impappinarmi. Vabbè, fa niente. E poi ti correggi. O ripariamo. Ok. Allora, Agnese Moro scrive, credo in un articolo per una rivista, questo non è presente all'interno del libro dell'incontro. Perché una persona a cui è stato ucciso un familiare che amava teneramente potrebbe voler conoscere i responsabili di quello e di altri orrendi omicidi e intavolare con loro un dialogo serrato? Per me la molla è stata la speranza di avere giustizia e il desiderio di uscire dall'orrore dell'infinita e perenne ripetizione interiore degli avvenimenti del passato. Avere giustizia è il desiderio più forte che ho provato dopo la tragica conclusione della vita di mio padre e delle care persone che furono i suoi compagni di viaggio, ma è anche la cosa più complicata che si possa chiedere. Sono importanti i falli fischiati dalla giustizia penale, gli arresti, i processi, le condanne e le lunghe pene scontate in tanti modi. So cosa si prova quando falli evidenti non vengono neanche fischiati. Ma sentirli fischiare non basta per avere giustizia. Ci sono risposte che la giustizia penale non può dare, ma senza le quali tu non puoi vivere. Ecco alcune delle domande a cui vorresti una risposta. Hai capito cosa hai fatto? Chi era la persona che hai ucciso? Hai capito che cosa mi hai tolto? Come hai potuto mettere la sveglia una mattina, alzarti e andare a uccidere? Come hai potuto fargli e farmi questo? Chi sei ora? Sei dispiaciuto per quello che hai combinato? Ascoltare le risposte e le domande è quasi sempre molto difficile, ma farlo aiuta una come me a capire senza scusare e a conoscere senza odiare e a scoprire con sorpresa l'umanità degli altri. Il dolore sincero per l'irrimediabilità del male compiuto, la disponibilità disarmata nei nostri confronti, lo spiegare il male fatto senza mai giustificarlo o giustificarsi. Ovviamente non è l'unico modo o quello giusto per tutti di gestire il proprio dolore. È il cammino nuovo per l'Italia della giustizia riparativa, che le nostre istituzioni vogliono esaminare con attenzione, perché accanto a quella penale ci possa essere, per chi lo desidera, una giustizia che si prenda cura nel tempo, con personale adeguatamente formato e coinvolgendo le nostre comunità, delle ferite che il male compiuto lascia dietro di sé e i cui effetti rischiano altrimenti di perdurare, toccando sempre nuove generazioni e nuove persone. Quando Agnese scrive questo scritto non c'era ancora la riforma Cartabia, quindi adesso è effettivamente legge. Mi preme dire solo una cosa, perché abbiamo fatto molto focus sulla parte delle vittime e purtroppo stavo per chiedere questa cosa. Non abbiamo uno scritto da parte di persone indicate come autore di reato. ma penso che sia importante dire che è fondamentale e veramente la cosa che dicevo prima rispetto alla dignità, per me quello è stato la svolta e la cosa che mi ha fatto innamorare e affascinare moltissimo della giustizia riparativa, il fatto che anche la loro storia fosse degna di essere raccontata e ascoltata, e anche avere questa responsabilità, come diceva prima bene Lucia, no? Che c'era la giustizia verticale, la giustizia orizzontale, no? Avere la possibilità di prendere in mano la propria responsabilità, non per un gesto compiuto, ma verso la persona a cui si è fatto del male, è una cosa di, mi viene da dire agency, però non so come tradurlo. Agentività. Agentività, cioè di prendere in mano e poter agire su una cosa che si è compiuta, che ridà la libertà, che invece una pena come può essere essere messi in prigione, per cui stai lì nel tuo letto in una condizione di deprivazione, violenza, cioè è tremendo. Invece avere la possibilità di avere anche quel coraggio, perché ci vuole un coraggio pazzesco per entrare nella stanza di mediazione, cioè ti devi sedere di fianco a uno che ha subito un tuo danno tremendo, oppure di fianco a uno che te l'ha fatto, e guardarlo negli occhi. Infatti dice bene Lucia, all'inizio le persone guardano solo te, magari spostano anche la sedia più lontano dall'altra persona, e magari poi finisce la mediazione in cui invece si guardano, ma dover sostenere quello sguardo è difficilissimo, quindi ci vuole un coraggio pazzesco, ma avere la possibilità di farlo, cioè non solo ho compiuto i miei 3 anni di punizione, sono a posto e così, ma avere la possibilità di agire su quello che si è fatto è in realtà una cosa bellissima, cioè quella è una potenza pazzesca. E per l'autore, le persone indicate come autori del reato, perché così si dice secondo la legge, è ridare appunto un'agentività che è bellissima, secondo me è una parte fondamentale. Quindi al di là della parte, cioè è bellissimo questo scritto di Agnese Mora, è fondamentale, ma è fondamentale anche per chi un reato lo commette. Infatti era la cosa che, cioè poi magari mi sbaglio, però la cosa che mi aveva colpito del podcast di Lorenzo, che a un certo punto lui dice proprio che essere padrone, cioè come dire consapevole, padrone delle sue azioni, gli ha ridato quella dignità anche di non essere visto solo come quella persona malvagia, no? Che ha fatto quella cosa, essere come dire etichettato come quella cosa lì, che personalmente anche ti distrugge dentro, cioè nel senso che al di là poi della storia che può essere personale, che ti porta a compiere un determinato reato, poi appunto la società ti etichetta così, e quindi tu devi convivere con quella cosa lì, e anche nel momento in cui tu rientri nella società comunque sei sempre vista o visto con quella cosa, e proprio anche a livello personale non riesci a uscirne. E invece una cosa molto bella che mi era piaciuta appunto del podcast, che lui a un certo punto parla di questa cosa e dice che aver riacquisito anche una certa, non so come dire, ma consapevolezza di se stesso gli ha permesso di pensare di poter, ecco, appunto anche fare una trasformazione, un cambiamento e migliorare la sua vita, perché si sentiva una persona migliore, diciamo, se non mi sbaglio. Ma è proprio così, cioè quindi anche nel processo, penso a tutte le critiche che ci sono su le difficoltà di reinserire un carcerato, una carcerata poi nella società, che non riescono a ritrovarsi eccetera eccetera, ma anche solo partire da un punto di vista personale, al di là di creare anche a livello sociale dei contesti comunitari che possano farli risentire integrati o integrate, prima di tutto parte da te stesso, te stessa, cioè il sentirsi appunto, no, degni o degne di quel rispetto, di quella possibilità. Mi trovi molto d'accordo. Io credo che sia molto importante che i paradigmi di giustizia possano fiorire ed integrarsi, cioè l'ordinamento penitenziario è una legge del 1975 che è poetica quando la si va a leggere, non è una legge degradante e umiliante, anzi è proprio una bella legge, però non viene applicata. E allora fa schifo perché non viene applicata. E quello, come dire, è il paradigma detentivo, quello che prescrive, come dire, l'esecuzione della pena. Se funzionasse, sarebbero altri discorsi. E altresì accanto ci deve essere un paradigma rieducativo, proprio anche per reimparare a stare nella società. Accanto a questo ancora ci può essere un paradigma di giustizia riparativa. È fondamentale che i tre paradigmi possano funzionare e, come dire, implementarsi con un andamento ciclico, no? Di reciproca crescita e di reciproca promozione, perché altrimenti sono molto carenti. Io credo che, per me è molto importante che leggiamo da tutte le parti questa lettera di Agnese Moro, perché io credo che quello che noi, come dire, vi abbiamo raccontato questa sera, per me ha molto valore, per noi ha tantissimo valore, ma le parole di Agnese Moro, che, come dire, è anche un personaggio di rilievo, possono ancor più rendere potente questo messaggio. Herman, grande psicoterapeuta che si occupa di trauma, dice che il trauma è il dolore degli impotenti. Secondo me, secondo noi, all'interno della giustizia riparativa ci si può riprendere un pezzo di scelta da ambo le parti. Scelgo di incontrare chi mi ha fatto del male, scelgo di incontrare una persona a cui l'ho fatto. Per cui sono la persona che magari ha commesso un crimine atroce e noi li incontriamo. E a me le prime volte facevo gli incubi su queste cose. Però, oltre ad aver commesso quella roba lì terribile, sono anche la persona che si adopera per fare qualcosa in favore della persona che ha subito questo. E questo è un'azione tanto quanto quel crimine turpe che ho commesso. E quindi riprendevo questa l'agency, l'agentività che citava Giuditta. Sono possibilità di fare esperienza di sé che possono, come dire, giustapporsi a quelle terribili che uno può aver commesso subito. Mi è fatto venire in mente una cosa che cioè, secondo me un valore che ha molto grande la giustizia riparativa è che lavora sulla relazione, lavora sulla comunità, lavora sul, perché poi questo è un mio punto di vista assolutamente personale, me ne assumo tutte le responsabilità, però io sono molto spaventata dall'individualismo che dilaga nel nostro modello di società e anche dei modelli di cura molto individualistici. Poi non esiste, non so come dire, come si dice, l'autarchia. Cioè, anche andare in psicoterapia vai con un'altra persona che ti aiuta, quindi non esci dalle cose da solo o da sola, però anche quello è un modello di gestire, diciamo, i disagi molto individuale, individualizzato, che ha un valore, non voglio assolutamente, non era... Lo dice perché è la mia professione. No, non voglio togliere assolutamente valore a questa cosa. È fondamentale. Sì, è fondamentale. Però è fondamentale anche lavorare su come, cioè imparare a lavorare su come si sta insieme. E la gestione del conflitto, che è un'esperienza che viviamo tutti in tutti gli ambiti, è qualcosa che invece non siamo in grado di fare, e quindi secondo me ha un grandissimo valore anche in questo senso, cioè a livello di impatto o pensiero o modello che dovrebbe prendere la nostra società. Cioè, alla fine si parla, al di là poi dei reati, di modelli per la gestione del conflitto, e tu entri in una stanza in cui faciliti un dialogo tra due parti, quindi non è tu con il tuo monologo interiore in cui a volte ci perdiamo tutti ed è faticosissimo, ma è un posto dove puoi avere un riscontro con un'altra persona, e secondo me questo ha un grandissimo valore. Ed è, cavolo, prima dicevo, ci vuole coraggio, è faticosissimo, cioè è molto più facile il metodo della divisione: tu mi hai fatto del male, mi allontano, non ti vedo più, ti isolo, mi isolo, non ci vediamo più. È una soluzione molto più facile, e infatti funziona da sempre. Il carcere, che anche fisicamente, cioè a Milano abbiamo uno dei pochi esempi di un carcere in mezzo alla città, che è San Vittore, ma se no sono anche fisicamente isolati, cioè tu vai fuori. Io vorrei che fosse il simbolo della nostra città invece che il bosco verticale. Esatto, cioè in mezzo alla città, che fa ancora più impressione vedere il contrasto, esatto. No? Perché comunque, però se no anche fisicamente sono fuori, quindi c'è la separazione. Per me ha un grandissimo valore, ed è difficile, perché davvero la soluzione più facile è la divisione, e a volte va benissimo anche quella, io la supporto in alcune cose, ma è mettere le mani nella cosa più difficile, cioè stare, starci in mezzo e provare dei modelli. Il nostro è uno, ce ne sono sicuramente tantissimi altri, però in cui invece si prova a costruire come stiamo insieme anche quando le cose sono difficili o difficilissime, perché cioè, i reati gravi ovviamente portano un livello di difficoltà ancora più alto. Mi piace quello che dicevi anche rispetto alla psicoterapia. No, ma io nel senso non svolgo queste due professioni come se fossi, come dire, scissa, splittata. Anzi, credo che come dire, ci sia un denominatore comune, no? Che all'interno di un percorso di psicoterapia ci si possa prendere cura di certi aspetti di sé e che poi se e quando appunto può essere, come dire, un'opportunità, ci possa essere un aspetto relazionale, perché io penso, come dire, a delle esperienze di vittimizzazione, perché mi occupo di fare anche la psicologa delle vittime, come diceva un ragazzo, sei la psicologa delle vittime, sono la psicologa delle vittime, lì si può ragionare sull'effetto su di me, ma la domanda perché a me, perché io, è solo l'altro che può rispondere. Ci possiamo fare grandi discorsi, grandi ragionamenti, ma quello che è avvenuto all'interno di quella relazione è lì che può trovare una risposta. Però questo mi fa venire un link, perché la mediazione diretta, persona indicata come autore dell'offesa, vittima, è solo uno dei programmi che noi abbiamo a nostra disposizione, perché la cassetta degli attrezzi dei mediatori e delle mediatrici in realtà è molto più ampia. E mi veniva questo link rispetto al fatto che un altro dei programmi, secondo me molto affascinante, è quello dell'incontro con una vittima di un reato analogo. Cioè, cerco di spiegarla bene nel caso tu mi assisti, cioè il reato è lo stesso, ok? Il fatto di reato prescritto dal codice, una rapina, ma la vittima e l'autore sono di fatti diversi, per cui l'esperienza, i fatti non possono essere argomento del contendere, no? Ma le emozioni e i vissuti sono universali e quindi è su quel piano lì che poi si lavora, no? Perché poi dirò forse una cosa terribile, molto spesso a livello dei fatti non è neanche così tanto importante stare. Il livello veramente importante, dove, come dire, c'è la ciccia ed è interessante stare, è quello delle emozioni, dei valori, e quindi alla fine i fatti, certamente adesso non è che voglio svilire questo livello, ma ciò che è veramente profondo e ciò che tocca il cuore e proprio le ciccette morbide delle persone sta a un livello inferiore. Ho spiegato bene quello della vittima analoga. Sì. No, volevo dire un altro modello bellissimo che facciamo, si chiama dialogo riparativo, e lì lavoriamo proprio con gruppi. E a me piace, personalmente mi piace tantissimo, perché facciamo magari un gruppo all'interno di solito di un istituto penitenziario, quindi un gruppo misto di persone che hanno indicate come autori del reato. E persone ristrette, quindi persone detenute, e di solito un gruppo di cittadini, può essere vario, a volte sono alcuni, cioè cittadini, altre volte sono scuole, e fanno un percorso separato e poi fanno degli incontri invece insieme, e quindi si ragiona in senso, diciamo, di giustizia un po' più esteso, cioè un dialogo riparativo, quindi è un dialogo esteso a delle comunità e a dei gruppi, e sono sempre molto molto molto arricchenti, e questo è un altro strumento di giustizia riparativa. Come vedi, Laura, noi siamo un po' appassionate del nostro mestiere. Ci piace, sono appassionatissima, e Giuditta mi ha trasmesso la sua passione, e infatti era da tantissimo che volevo fare questa puntata, perché mi piace tantissimo. Poi per me, che sono esterna da questo mondo, appunto condivido molto la cosa che dice Giudy, cioè almeno per quello che cerco di fare io nel mio piccolo, è molto importante creare un senso di comunità. Anch'io, diciamo, cerco di combattere questa idea di individualismo, e anche sulla questione della terapia mi interrogo tanto quanto possa essermi utile, sì, fare un lavoro su me stessa, in dubbio. Però poi mi manca sempre il ritorno con l'esterno, no? È molto faticoso, perché, per dire, in un confronto che possa avere con qualcuno con cui ho avuto un problema, non ho un mediatore o una mediatrice, quindi mi chiedo, no? Cioè è sempre poi complicato far sì che, cioè immagino che il vostro lavoro sia anche quello proprio di far sì che la tua parte e l'altra parte siano visti, e invece in un confronto a uno non è sempre facile, perché poi magari prevale un carattere su un altro, insomma. E quindi anche per me la cosa che appunto mi appassiona attraverso i vostri racconti, cioè, ovviamente perché non lo vivo in prima persona, è questa idea di, non lo so, cioè se quando vi chiedevo qual è l'impatto che immaginate di avere anche in senso più ampio sulla società, per me la speranza è che sia un po' questo, cioè quello di anche, non so, cambiare una prospettiva sociale di come si sta insieme, di come si dialoga, di non vedere sempre solo se stessi, ma imparare a, non so, empatizzare anche col resto dell'umanità con cui in fondo conviviamo su questa terra. Quindi Assolutamente sì, questo è un po' sicuramente l'auspicio che caratterizza le nostre pratiche, e infatti, come citava prima Giuditta, esiste anche la comunità. Quindi è vero che negli incontri di mediazione vis-à-vis, come dire, c'è la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima, ma l'impatto sulla comunità esiste, anche solo, come dire, se a livello informale ne parlano con i loro amici, no? Di aver fatto questa cosa, esatto, sensazionale e diversa un po' dalle pratiche solite. Cioè, quasi come se diventasse, cioè al di là poi di essere la, come dire, lo strumento per risolvere quel problema lì, che diventi una mentalità, ecco, questo intendevo, cioè una cosa che esiste questa possibilità, esatto. E infatti nei percorsi che citava Giuditta la comunità esiste, no? All'interno dei dialoghi riparativi la comunità è coinvolta sia come come dire, come parte lesa, perché quando noi sentiamo un fatto di reato ci viene paura, e quindi è anche importante promuovere la possibilità intanto di pensare all'esistenza di alternative e quindi poi di renderle sempre più percorribili e abitabili, per creare un po' nuovi spazi di pensiero all'interno della mente e quindi anche di relazione. No, solo una cosa che forse, cioè, non volevo mettere sullo stesso piano la terapia individuale, psicoterapia. No, ma solo per dire, era un tipo di esempio di come siamo abituate anche a gestire determinate cose. È un valore importantissimo, e anche all'interno della mediazione è importantissimo riconoscere anche l'individuo, l'altro individuo, e allora poi possono incontrarsi. Cioè, non è che la parte individuale per me non abbia nessun tipo di valore, certo. Anzi, è fondamentale. Ma assolutamente, anche perché poi, come dire, il trauma ha degli effetti anche deflagranti sulla persona, e molto spesso può essere utile costruire degli argini di senso tali per cui io poi possa aprirmi, certo, e incontrare l'altro, perché il trauma è una bomba nucleare, può creare veramente delle bombe, dei buchi atomici nella persona. E quindi no, assolutamente, io credo che come tante pratiche di cura di sé e delle relazioni possano integrarsi, certo, e promuoversi. Grazie. No, io non ho altre domande, non so se qualcuno dal pubblico ha delle domande. Devi, scusa, perché così resta registrata. Solo parlare di... Io me ne ero appuntata una all'inizio forse della conversazione, quando parlavate della giustizia tradizionale e della giustizia riparativa e di come vi arrivano i casi, che in alcuni casi vi arrivano da un giudice che ritiene quel caso adatto ad essere trattato in questo modo. E mi domandavo, ma vi arrivano più spesso da dei giudici che sono attenti a questo tema o da tutti i giudici? Che domanda tendenziosa. Non so se possiamo rispondere a questa domanda. No, è una domanda molto interessante. Provo a dire quello che mi viene in mente e poi mi censurate. No censure qui. No, allora sicuramente anzi forse do una risposta un po' democristiana. Sicuramente ci sono all'interno della magistratura minorile e adulta delle persone particolarmente sensibilizzate, che quindi, come dire, hanno un po' nell'animo, nel cuore e nella pancia un'idea di giustizia che non sia solo quella che loro erogano attraverso il tribunale. Contemporaneamente parte del nostro lavoro è fare formazione e sensibilizzazione, così oggi qui, così in magistratura, quindi tutto quello che è nuovo e rivoluzionario va detto e ridetto tante volte, quindi parte del nostro lavoro è anche quello promuovere una conoscenza profonda e complessa e completa di queste pratiche, perché sempre più giudici possano essere motivati a inviare i casi agli centri per la giustizia riparativa, avendo bene in mente che non sono pratiche, come spero che siamo riusciti a spiegare, buoniste o per così, vabbè dai, a tarallucci e vino, anzi, che sono grandi opportunità. E quindi l'idea è che diventi sempre più una prassi e non solo, come dire, perché quel giudice lì ci ha avuto quell'idea lì, cosa che, come dire, magari 30 anni fa poteva essere, oggi è una legge che ci studiano in tutto il mondo perché è fichissima, grazie Adolfo, però, come dire, l'idea è quella che si possa sempre promuovere una maggiore conoscenza della legge e quindi pratiche più fluide. Poi devi venire qua. Io volevo chiedere se ci sono opportunità di, le chiamo volontariato, poi non so se si chiama così, per non addetti ai lavori o persone che magari vogliono avvicinarsi alla professione del mediatore e della mediatrice e magari capire com'è, no? Prima di inserirsi in una scuola e non so come funziona. Allora, ci stiamo consultando. No, perché per, diciamo, per fare volontariato come mediatori, il mediatore e la mediatrice hanno una formazione, adesso tra l'altro è regolata per legge, noi le abbiamo fatte quando non era ancora regolata e siamo entrate nell'albo dei mediatori. Stavo facendo un commento politico, non lo faccio. So cosa stavi per dire. Quindi da quel punto di vista non tanto, perché serve ci sono dei tirocinanti e dei volontari che lavorano presso i nostri centri, però è perché magari hanno fatto la formazione ma non avevano abbastanza ore di esperienza per rientrare nell'albo dei mediatori. E noi per fortuna sì. Però i dialoghi riparativi di cui parlavo prima, che sono appunto questi gruppi in cui si fa un percorso di giustizia riparativa, il gruppo dei cittadini o degli studenti sono persone che libere che decidono di partecipare e quindi fanno un percorso di giustizia riparativa, secondo me molto bello, molto arricchente, però parlo ovviamente tirando acqua al mio mulino. E quello ovviamente non è un percorso che ti avvicina all'essere mediatore o mediatrice, però è un percorso di contaminazione con queste pratiche dove si vede, si vive, si sperimenta in prima persona quelle che sono appunto queste pratiche, queste tematiche. Poi se hai subito un reato ce lo vuoi dire, magari ti coinvolgiamo. Ciao. Io volevo chiedervi se è capitato qualche volta che in un incontro ci sia stato più il danno che la riparazione, o se ci sono effetti collaterali, diciamo, della... Grazie. È una domanda molto interessante. Diciamo, io posso parlare per la mia esperienza e un po' per, come dire, gli studi che ho fatto. Prima l'ho fatta magari un po' veloce, ma tutta la parte pre-incontro è quella che permette di costruire delle condizioni di fattibilità. I colloqui preliminari possono essere uno e tanti, perché l'idea è quella appunto di costruire delle condizioni di fattibilità soggettivamente stabilite dalla persona per sentirsi pronti ad arrivare a quell'incontro. Tutto questo lungo lavoro che può... io sto seguendo un caso molto complicato di cui non voglio entrare, ma lo sto seguendo da 2 anni, e siamo arrivati a una quindicina di incontri con la persona indicata come autore dell'offesa e ancora, come dire, stiamo cercando, come dire, di costruire delle buone condizioni di fattibilità perché ci si possa aprire alla dimensione delle vittime. Quindi è molto curato l'aspetto pre, proprio perché ci siano tutte le condizioni di tutela, di sicurezza e di fattibilità perché l'incontro sia di riparazione e non di danno. Nella mia esperienza, tutte le volte che si è arrivati a un incontro, non sono tante ma non sono poche, l'incontro è stato valutato dai partecipanti come positivo. Mi viene in mente una mediazione dove, che era con quella formula del reato analogo che citavo prima, dove un po' l'analogo era la violenza inusitata che aveva caratterizzato questi atti. Non si arriva a comprendere il male perché si incontra la banalità del male, ma incontrarla permette a chi ha subito degli atti terribili di vedere quella banalità lì. Le persone che avevamo coinvolto come vittime specifiche, per quanto, come dire, addolorate, devastate da quel dolore e lungi da noi cercare di cancellare qualcosa, ci mancherebbe, avevano valutato come molto positivo la possibilità di incontrare un autore che avesse commesso tale violenza. Quindi il danno io non l'ho incontrato, non escludo che ci possa essere, perché ci può sempre essere, però le lunghe preparazioni prima permettono di promuovere degli incontri fattibili, abitabili e sicuri. Non so se ti torno. Vuoi fare una domanda? Una memoria a super breve termine, quindi non mi ricordo già più quali sono tutti e tre i principi oltre alla volontarietà, e se potevate ripetermeli. Sono la volontarietà, la confidenzialità e il non giudizio. Ok, c'è un momento della giustizia, magari anche non riparativa, perché comunque sono i principi della giustizia riparativa, quindi immagino non abbiate nessuna intenzione di romperli o piegarli, ma in cui, o c'è qualche caso in cui avete pensato di voler applicare una giustizia riparativa al di fuori di questi principi? Quindi non dico obbligare, ma comunque spingere qualche persona indicata come colpevole di reato a partecipare o viceversa. Allora, noi diciamo che raccogliamo il consenso e costruiamo il consenso, quindi assolutamente non convinciamo, questo è uno dei principi che ci siamo dati e date. A volte, ho in mente uno degli ultimi casi che ho seguito, tu guardi da fuori e dici, cavolo, se vi incontraste veramente stareste molto molto molto meglio tutti e tutte. Però non siamo riusciti a costruire il consenso e quindi la mediazione non è avvenuta, perché ovviamente il mio è uno sguardo da fuori e evidentemente non c'era in realtà quello spazio e quella disponibilità per l'incontro. Però quindi è stata assolutamente, ovviamente, rispettata la volontarietà come principio da fuori. Allora, di solito, poi questa è una tendenza, non è sempre così, però tendenzialmente a volte sono più le vittime a magari non essere disposte, e perché magari hanno paura, adesso dico una delle emozioni che possono esserci, e tipo in questo caso che sto pensando, queste vittime avevano subito un reato e per loro era stato come se nella loro vita avessero incontrato per la prima volta il male, come se quel reato lì gli avesse fatto scoprire che il mondo poteva essere cattivo, e per loro da quel giorno è cambiata la loro vita, cioè terrorizzate, erano cambiate le loro abitudini. Non un reato gravissimo, ma non lo dico per svalutare, perché ovviamente appunto anche un reato così può avere delle conseguenze pesantissime, e quindi era cambiato il modo in cui camminavano per strada, uscivano, facevano le loro cose, perché pensavano che la persona che avesse fatto quel reato fosse un mostro tremendo, cioè fosse veramente cattivo, che lo faceva con una cattiveria, che voleva in realtà ucciderli, cioè avevano avuto paura di morire. E io ovviamente avevo incontrato anche la persona indicata come autore e sapevo che poteva raccontargli che non era quel mostro lì, e questa cosa avrebbe reso molto più leggeri anche loro. Però loro non hanno voluto, perché evidentemente non avevano quello spazio, cioè per loro era vitale mantenere quell'immagine lì. E quindi si è rispettata la volontarietà delle parti e l'incontro non è avvenuto. Se mi chiedi da fuori a me, Giuditta, personalmente cosa pensavo, avrei voluto che lo incontrassero per scoprire che non era quel mostro e quindi camminare per strada con la consapevolezza che non esisteva quel mostro nel mondo, perché non li faceva vivere bene. Mi viene da dire un'altra cosa: il principio della confidenzialità noi non lo violiamo, ma con il consenso dei partecipanti possiamo portare fuori delle parti di ciò che emerge durante i percorsi di giustizia riparativa. Prima citavo il caso di 22 partecipanti, era stata una mega rissa avvenuta in una zona della Lombardia, e i media della zona ne avevano parlato con toni di sensazionalismo. Uno degli esiti di questo percorso di giustizia riparativa era stato che uno dei ragazzi indicati come autore dell'offesa e una delle vittime avevano scritto un articolo poi pubblicato su quei media raccontando il loro percorso. Quindi c'era stato qualcosa che era stato portato fuori dai diretti protagonisti di questa vicenda, proprio per coinvolgere la comunità e dare anche seguito a quello che era stato un clima di terrore inizialmente portato avanti dai media. Aggiungo un'altra cosa rispetto al terzo principio, così li facciamo fuori tutti e tre, perché il non giudizio è un casino, perché noi, quello che diciamo sempre anche nelle formazioni, è che noi siamo, come dire, biologicamente, fisiologicamente fatti per giudicare tutto, e questo ci ha salvato la vita. Il non giudizio è un allenamento, e nel corso della mia carriera, io ho fatto il corso di formazione nel 2015, sono passati 10 anni, lavoro attivamente da 2018, ho incontrato dei casi che mi hanno fatto scuotere le budella e attorcigliare tutti gli organi, ma credo che uno dei grandi vantaggi della nostra equip e delle persone con cui lavoriamo, prima fra tutti Giuditta, sia la possibilità di parlarne. Cioè, all'interno degli incontri di supervisione, degli incontri di equip che noi facciamo, abbiamo la possibilità anche di parlare delle implicazioni personali che quegli stessi fatti che noi trattiamo possono avere su di noi. Perché il non giudizio non è, come dire, uno status quo a cui sono giunta e buona, sono arrivata. È un allenamento, perché bisogna creare una condizione nella propria mente, una parentesi dalla vita quotidiana dove siamo portati a giudicare, per lasciare che sia la persona che incontri a colmare quello spazio lì. Quindi è complicatissimo. No, e poi nella vita di tutti i giorni io sono una persona normale e giudichiamo ma come è giusto e legittimo, no? Però quando siamo in quel setting lì abbiamo, come dire, questa formazione e collaboriamo e costruiamo questo allenamento mentale. Ma e quindi, se, per capire meglio, non c'è un tentativo di convincimento, avete detto prima, quindi non c'è un guarda che ti farebbe bene, tipo, no, non esiste, no. Proprio. No, non si può dire. Perché un'altra cosa che non abbiamo detto è che come mediatori non diamo consigli, non interpretiamo e non giudichiamo. Cioè, presentare una possibilità e sì, reagire. Aspetta. Sì. Esattamente come l'abbiamo. Cioè, tante delle parole che noi abbiamo usato questa sera sono le stesse che utilizziamo negli incontri di formazione o negli incontri di giustizia riparativa. La presentiamo come un'opportunità, e in quanto tale spetta poi alle persone poterla cogliere. Secondo me, torno a dire, uno dei grandi vantaggi è quello di non avere una data di scadenza. Quindi certamente, come dire, noi nei casi di giustizia riparativa in ambito penale penitenziario abbiamo un committente, l'autorità giudiziaria, che ci invia la segnalazione e a cui restituiamo un esito che in alcun modo viola i principi di cui sopra. Ma domani, tra 10 anni, una persona che prima ci aveva detto no sceglie di dire sì, noi proviamo a costruire delle condizioni di fattibilità per raccogliere quel desiderio quando è maturato, proprio per dare il tempo alle persone di sentire soggettivamente il tempo. E penso a un caso che stiamo gestendo molto complicato e complesso, dove per esempio non è stata sporta la denuncia. Questo è un diritto delle persone, non intendo entrare in questo. Noi non abbiamo la possibilità di contattare l'altra persona, perché a che titolo io ti vengo a dire non sei stato denunciato, non c'è un processo, che cosa ti vengo a dire, no? Però possiamo costruire degli spazi, come possono essere quelli che citava Giuditta, quelli che citavo prima con vittima di reato analogo, dove si possa, come dire, comunque utilizzare l'esperienza di vittimizzazione subita per promuoverne una trasformazione nel rispetto della volontarietà di tutti. E quindi è un gioco non è la parola giusta, però è un equilibrio complicato. Quindi no, non convinciamo. Cioè, in questo caso che raccontavo prima, semplicemente abbiamo dato tutti gli elementi per far sì che le persone sapessero che erano in un posto sicuro, che erano tutelate, che noi avevamo dato la fattibilità, e quindi che dare la fattibilità significava che loro non avrebbero avuto il rischio di percorrere un pericolo, cioè non sarebbe stato pericoloso per loro. E le persone poi hanno detto di no, e quindi non gli diremo mai la frase "guarda che secondo me ti farebbe molto bene", questo non possiamo farlo. È giudicante ed è dare un consiglio ed è interpretare quello che secondo noi è giusto per loro, e invece proprio non possiamo farlo, no, gli diamo tutti gli elementi e poi le persone scelgono. Grazie. Grazie a tutte e tutti, ci rivediamo mese prossimo.